Siamo con Daniele Campea, regista del film Macbeth Neo Film Opera, in uscita in sala giovedì 14 giugno. Daniele, ben trovato. Ciao, ciao, ben trovato. Ce lo racconti? Sì, allora, Macbeth, neofilm opera, appunto, come dice il titolo, è un adattamento della tragedia famosissima di Shakespeare. Questa volta riletta in chiave un po' particolare, perché come primo elemento caratteristico c'è una donna a interpretare Macbeth, Susanna Costaglione. E in più abbiamo dato alla storia un'ambientazione un po' più, diciamo, distopica, in un'ambientazione non ben definita, in questa fabbrica abbandonata che sarebbe il castello di Macbeth. E la cosa più importante, abbiamo infarcito tutta la storia con le musiche di Giuseppe Verdi, tratte anche dal suo Macbeth. Quindi è un po' un'unione di Shakespeare e di Giuseppe Verdi. Come nasce tutto il progetto? Il progetto è nato da uno spettacolo teatrale del 2015 diretto da Claudio Liscanio, che aveva Susanna Costaglione come interprete principale. Dopo aver visto lo spettacolo ho deciso di riscrivere completamente il copione, di adattarlo in chiave più cinematografica, di tenere sempre Susanna come protagonista principale, e nel giro di 6 mesi abbiamo attrezzato tutta la produzione e abbiamo girato il film in pochissimo, poi circa 7-8 giorni. È stata Senti, un'avventura veramente fulminante, diciamo così. cosa ti aveva folgorato del testo teatrale? Allora, il testo in sé è potentissimo, diciamo, racconta questa follia dell'ambizione che mangia se stessa, questo inseguimento continuo di un potere che anche quando è effettivamente in pugno non smette comunque di tormentarci. Quindi è una parabola che racconta anche l'uomo di oggi, non soltanto una storia medievale. E soprattutto avevo dei riferimenti anche cinematografici che amo moltissimo del Macbeth, tra i quali quello di Orson Welles, quello di Roman Polanski e di Akira Kurosawa, che erano comunque dei fari che ho avuto per tutta la lavorazione. Cosa hai puntato rispetto alla trasposizione? Allora, ho cercato di mantenere comunque una fedeltà al testo teatrale, anche se ho condensato molto. Diciamo, il film si aggira sui 50 minuti, quindi rispetto a un adattamento classico teatrale tutto è molto più compatto, è molto più conciso. E questo è dovuto soprattutto all'uso della musica che ho adattato nel film. La differenza principale è questa, diciamo, sia dall'aspetto prettamente teatrale che da altre versioni cinematografiche, che la musica in questo film è un protagonista al pari livello degli attori. E quindi l'uso della musica ha influenzato direttamente lo stile di montaggio, lo stile di recitazione, e credo che la differenza principale sia questa, insomma, ha dato una chiave di lettura abbastanza particolare. Ecco, rispetto alle musiche, com'è stato il lavoro? Dal suo Sì. Macbeth, dal Tedeum, dal Requiem. In più ho composto personalmente delle musiche elettroniche, essendo anche musicista, che ho integrato durante le scene, quindi ci sono dei momenti molto più sinfonici, orchestrali, pieni, che si alternano a delle parti molto più minimali, elettroniche. E in questo modo ho cercato di dare una specie di equilibrio sonoro, oltre che di immagini, che accompagnasse lo spettatore e non lo affaticasse troppo durante la visione. E rispetto al cast, ti sei attenuto a una provenienza teatrale oppure hai spaziato? Sì, il cast diciamo, è tutto teatrale. Susanna Costaglione è, diciamo, un'attrice, su di lei si regge tutto il film, Sì. un'attrice teatrale di razza, tant'è che questa è la sua prima esperienza in assoluto al cinema, quindi non ha mai recitato in un film, e nonostante tutto si è trovata perfettamente a suo agio. Poi ha avuto dei comprimari, tra cui Franco Mannella, Iride Aggergi, Claudio Liscanio, che sono tutte personalità che vengono dal teatro puro. E in più, molte comparse e altri personaggi sono non professionisti, quindi sono persone che partecipavano a dei laboratori teatrali che abbiamo coinvolto, ma è un ambiente, diciamo, interamente teatrale. Sì. Rispetto alla distribuzione, come vi siete mossi? Allora, la distribuzione, per cui devo ringraziare Giovanni Costantino, ha creduto subito nel film, nonostante avesse comunque, diciamo, un impianto abbastanza sperimentale, quindi non certo una garanzia. E, distribuzione indipendente, si sta muovendo con una, diciamo, con una distribuzione a macchia, quindi inizieremo da giovedì 14, abbiamo iniziato ieri, e andremo avanti fino a novembre-dicembre con una distribuzione che sarà spalmata nel tempo, più progressiva, e che coprirà tutta Italia. Quindi, ci sarà modo di vedere il film anche da qualche mese da ora. Benissimo. I riferimenti web per saperne di più rispetto al film, alle date. Ah, certo, allora, sul sito di distribuzione indipendente c'è l'aggiornamento costante delle sale che trasmettono il film, lo proiettano, su Facebook potete trovarci citando Macbeth e Filmopera, e sono due, diciamo, questi due siti sui quali potete trovare ogni tipo di informazione sul film. Benissimo, allora ricordiamo il film Macbeth, neo film opera di Daniele Campea, in uscita in sala il 14 giugno. Daniele, un in bocca al lupo, un saluto, a risentirci presto.